spengono le luci, andiamo, che di sera le ombre fan paura, nei vicoli come nei parchi. Si spengono d'un tratto i pensieri, cammino a fianco a te ma non ci sei, guardo il fondo buio e lontano di questa sporca strada. Quanti anni ancora abbiamo? Viverli bene è un dovere, e sorridergli non ti pare. Scansa la tua malavoglia, trattieni i tuoi pensieri più neri, buttati nel mondo e vediamo cosa poi succede. Cosa vale un amore così? No, non è amore, si può buttare via. A che serve indugiare sulle spine, quando la vita mia appartiene ormai al tempo che corre già da tanto tempo e corre e va fuggendo. Spengono le luci, ora andiamo, che di colpo questa notte fa paura e mi aspetto qualcosa che non mi piace. Quella tua carezza che non mi darai, e i tuoi toni ragazza che non cresce mai. Salvati se puoi, e del chiarore dei tuoi occhi, tranne un faro che ora ti guida verso casa, dove forse puoi pensare ancora un po'. Che tempo di andare, anche questa notte è finita e la luce scaccia le ombre dal cuore. Sono tanti e nascosti i segreti, tanti, troppi, e nascondono pure te. Apriti al mondo e poi tu capirai che c'è tanta bellezza. A cosa serve starsene ancora qui? No, non lo vale, è tempo sprecato. Noi dobbiamo disegnare futuro, contratto leggero, a penna d'oca e andare ovunque sia l'incanto e la passione che tra noi sono già storia. Spengono le luci, ora andiamo, che di colpo